da poco, e sono Brassetta. Ah, il Brassetto, sì, andate più compreso, veramente, sono quelle che la tende, allora, avanti, ma sono sindaco, ma chi è, sì, il retaggio. Ciao Giulio, ben sentito, no, mi stavo guardando un documentario, so, prima c'erano pesci, foche, pinguini, orche marine, squali, i fondali marini, poi c'era avventure cambiato dei patrimoni siciliani, hanno girato tutta la Sicilia con 18 ape a carrozzella fatte a tassi, e tutta la Sicilia, tutti i posti meravigliosi che ci sono, ma è uguale alla Sardegna, ma tutte le chiese, le piazze, i famosi che ci sono stati, storici, vichinghi, ghisi, ghisastri, anche io sapevo una figlia della regina, mi sembra Elisabetta, era stata esiliata in quel punto della Sicilia, un bel posto, si vedeva tutto il panorama, perché era stata trovata a corteggiare il figlio del principe Rossogo di Gà, insomma, che era bello, va? Ho capito. No, siccome ho visto la portante tua, ho visto, tra di lui a Graziano, riesci dentro, niente, gli ho visto, dove è andata a lavarsi la faccia, quindi si sveglia bene, si sveglia dal pomeriggio, dal pisolino che si è fatto. No, io nel frattempo stavo guardando la moto, il motociclismo, no? Ha vinto Valentino Rossi oggi, e adesso sto guardando anche il Giro di Francia, oggi è la prima tappa del Giro di Francia. Adesso mi ha cotto una ciampata, mi ero raggiunto una guidesina, uno in avanti all'altro, ma nessuno si è fatto niente, sono stati, sono ripartiti tutti, sicché va bene così. Capito, Nassia? No, siccome ho visto un segnale della tua portante, ho detto, mi nomi, dicemi. È il mio, non l'hai visto, cambio. Tu, no, non eri tu, no. Il mio non l'hai visto, non c'entro io con quello, non c'entro nulla io con quello poco fa. Buonasera a tutti. Ciao. Infatti non eri tu, era il segnale di Graziano. Bello Graziano, tu vedi che hai dato un competitivo importante. Allora, come prima cosa io accendo l'alimentatore, guardo il numero, quando si ferma il numero giusto, accendo l'apparato, aspetto 2-3 minuti e do una schiacciatina di portante e mi guardo il rosmetro. Poi lo lascio un altro po' e poi schiaccio e parlo. Prima mi controllo tutto. E fai bene, grazie, tu sì che sei prudente, non si sa mai. Ciao già, avanti già. E io uguale, mi faccio la stessa cosa che fa lui. Controllo tutto quanto, sei in ordine sempre e via. Ho visto che da quando piazzato i radiali, da 1-1 non si muove, quindi va benissimo, e tutti i carici 1-1 giù. Ma con cade la numera così. E te lo credo. E beh, quando le cose sono tutte in ordine, apposta, no, io qui ho l'interruttore che stacca, l'interruttore generale, stacca la corrente a tutto qui, poi tutto il resto rimane acceso. Però quando accendo l'interruttore, qui si accende l'alimentatore, si accende il baracchino, si accende tutto. Perciò io stacco la corrente, sempre, cioè non è mai sotto corrente l'apparecchiatura qua. Dunque, ma lo smetto, non ho inserito, dunque no, non ci sono problemi, c'è solo il baracchino e l'alimentatore acceso, o meglio i baracchini, non il baracchino, i baracchini, tutti sotto tensione. Perciò va bene così. Qui non c'è niente da controllare qua. Già me ne accorgo subito io se per qualcosa non funziona bene, no? Non ci sono problemi. Va bene, riprende già. Allora lavoro, mi pare che anche stasera mi tocca e non posso manco andare a pescare stanotte. peccato. Adesso mi è stato facile lì, mica, città. Ma se avete soldi, io sai come peschi bene. Non ci sono problemi. Vero, grazie. Puoi fare di lampirina a capi, non pesci. Vieni e lanci la moneta e quello ti rimbricchia e ti ricco la faccia. Ciao già. No, io le stazionarie da 1 e 2 non si muove mai, sempre così. Nonostante mi mancano quel radiale, ma già andava in me stesso. Da lì però non si muove. Io prima faccio sempre così, lo faccio scaldare quei 5-10 minuti, tutto, così va in tensione bene tutto il circuito elettrico e tutto, scalda un pochettino e poi entro. Io ho fatto sempre così. Grazie, ma io sono convinto che se tu con la terra li metti radiali nuovi, riacquisti tutto, ti andare a zero il stazionario, perché dipende dal radiale, anche la mia era 1,4 all'inizio, quando non ci gli mancavano i tre radiali, poi è mancato il quarto, è salita quasi a 2, se ne parla, adesso vale la faccia. Come c'è stata la prima giornata, diciamo, non era di tempo bello, tanto è vero che alla fine, quando stavo finendo l'ultimo, stava cominciando a piovigginare, ma ce l'abbiamo fatta fino alla fine, a lasciarla bene, a farla, tutta ok. Io già lo credo, certo. Insomma, se i radiali li hanno messi quando hanno costruito l'antenna, vuol dire che servono, no? È chiaro, se ci mancano sempre, si può dire che è un'antenna un pochino messa male, un pochino handicappata, è chiaro, è normale. I radiali li hanno costruiti, li hanno fatti perché hanno fatto dei calcoli e ci vogliono. Dunque, se ci sono è meglio. Se non ci sono, pazienza, guarda la mia, me ne manca io tu. E dunque, ti puoi immaginare, non è poco. Va bene, dai, sino a questo momento andiamo bene ugualmente. E voi, mi vuoi intendere, mi intendi, non mi vuoi intendere, peggio maestro, così buchi la legge. Vai, grazie. Appena c'è il tempo io lo faccio, purtroppo adesso non lo posso fare perché sono già più di 2 giorni in casa che ho la congiovite, già sembra che sto migliorando, ma il giorno 4 devo andare al controllo, non riesco a che mi donino i lucci e poi non ci posso, anzi oggi mi piace un po' di biabecchi, dai, meno russi, però vado un capo pieno di Gucci, a cui è buono i Gucci. Vabbè, piano piano, grazie, è interessante che stia risolvendo il problema, tu poi piano piano, lo so, purtroppo, ti ho detto il problema tuo qual è, il fatto di essere diabetico, quando uno ha qualcosina tarda di più a guarire, lo sappiamo, no? Ma comunque ci vuole un po' di pazienza, lo so, indubbiamente stai male, perché lo so che si sta male, ci mancherebbe altro, però piano piano, interessante non abbandonare mai la cura, farla sempre la cura nel migliore dei modi, sempre pure rinfrescati, gli occhi si a posto e vedrai che tutto si risolve. Purtroppo se c'è questo virus in giro può prendere a chiunque. Avanti già. Gianni, la polizia stradale hai trovato. Gianni, polizia ha trovato in gorgo. Se passa dalla Buttibuggi ci sarà traffico della gente che va al mare. Gianni ha avuto la polizia stradale e lui adesso non prende il microfono in mano, capito? Ehi, anche quello può darsi, ma io mi rivolgo quando la cena potenza in macchina e va via la cintura e tutto a posto, ma vediamo come attessi. Ma non mi hanno mai fermato, e qualche volta mi hanno fermato, ma l'ha mai dato uno, ma la fine mi ha detto, ma già ce l'ha la concessione, e la ditta, certo che ce l'ho, se no non avrei lasciato lì adesso di scuola a vederlo lì. E allora facciamo così, signor Campo, me la faccio vedere. Ecco qui, apriamo un cruscotto, qui questa è la concessione, questa è la denuncia, E questo è il pensamento. Meno male, già andiamo d'accordo, vabbè, vada, vada, hai capito? Bene, è normale, no? Loro sono lì apposta lì per controllare, e ci mancherebbe altro, anzi, se non facessero i controlli vuol dire che stanno rubando i soldi, siccome sono messi lì per controllare, è giusto che se li guadagnino i soldi, no? Non si pigna solo che vuole guadagnare, è normale. Vediamo se Gianni riprende. Gianni? Ehi, oggi vorrei che l'altro giorno qualcuno stava a rilassarmi a Platamona, a mangiarmi i gelati e cose del genere. Ho beccato Daniele il CB, no? Con la moglie e col bambino piccolo. Si è avvicinato, ma tu avvicinati che portare fuori il bambino c'è troppo vento. E mi sono avvicinato. No, mi stavo avvicinando, si ferma la pattuglia, documenti a tutti e due. Scherzita! E come mai? Ora sì che hanno visto la linea che si è avvicinata alla macchina mia, poi io ho chiuso la macchina, sono andato verso la sua, chissà cosa ha ripensato, di sul capo che va. Ho capito. Esposizione. Ah, intanto gli ho fatto la battutina e dico, allora mi ha fatto la battuta a dargli i documenti e gli ho fatto e tutto a posto, ma niente da dire. Io non credo, quando mi prego la cosa da dire, no? Non ho più niente da dire, niente, non posso dire niente. Guardo più tardi alla tappa, tanto che già fanno il processo alla tappa. Avanti già. Praticamente quella la polizia, come cacchio si chiama, anticrimine. Allora ti volevano arrestare, là, ho capito. Poi se ne fai un altro piccolo a me, poi che affari fanno, Io grazie a Dio fino adesso, se non è che mi costringono a fare qualcosa che non devo. E tu allora fallo qualcosa, e vuoi avere la soddisfazione? Fallo qualcosa. Va bene, così si mangia grassi, si fa aggiungere le pizzole grassi. Conosci a Grazzaretto, conosci, ti metteranno vicino. Cosa vuoi di più? Meglio è così. Pazzeraccio, Marò, Giulio, forse ha scontato quello lui, vabbè, cosa c'è? Poi si adegua, no? Poi si arrangia, quello non sarebbe un problema. Già lo grido. Non è possibile. Aspetta che ci chiama Pompugno, che stava aggiustando l'antenna poco fa. Se c'è riuscito, Antonio Pompugno, ci sei. Ecco sul canale! Avanti Alessà! Ciao Alessà! Capa, buonasera signori, circolari, salutoni! Ciao Alessà, ci sono io, c'è Graziano e c'è anche Gianni. Avanti Gianni per Alessandro. Non sento passo a passo, non sono vicino, è bassissimo qua, tutto il livello QRM. Forse non ti ha sentito nemmeno lui. Vabbè, lui sicuramente è in giro per lavoro, è normale, no? Adesso Gianni dice che non ti ha sentito a livello QRM praticamente. E c'è Graziano, avanti Graziano per Alessandro. Ciao Alessandro, bene, in che zona ti trovi? Ciao Graziano, buonasera dai. Da parte mia tutta zona industriale, Porro Torres, direzione Sentino. Allora tra poco consentirai a Gianni, perché mi sa che sta andando a Trabacco in quelle coordinate là. Gianni sta andando nella zona industriale di Papatango, magari quando sei più su lo ricevi bene. Bisogna vedere il punto dove è nella zona industriale è lui. Sei coperto, capito? Non è che sei in alto, anche se tu accendi la radio, secondo che stazione c'hai, sparisce l'onda sino a che non finisci tra quella discesa o quella salita viceversa, capito? Così è, Giulio. Certo, se le onde, non, cioè se le antenne non vengono all'orizzonte non c'è niente da fare, si sa che le onde sono scarse, si ammassa il segnale, si ammassa la radio, si ammassa tutto. Vediamo se Alessandro invece ha sentito a Gianni. Alessandro, hai sentito tu a Gianni? Ciao Giulio, ma l'ho sentito un attimino di sottofondo, dai, ma adesso in questo momento sto andando con l'antennino piccolo, capito? E poi adesso mi trovo esattamente nella piantagione dei cardi, e quindi i cardi, avendo le spine, mi respingono il segnale. Ho capito, adesso, adesso l'hai sentito senz'altro comunque, perché il segnale è aumentato, Gianni, adesso non mi dire che non l'hai sentito adesso. Grazie. parte qui arrivi abbastanza bene, sei comprensibile, la radio è pulita, ok, ti sento bene. È Gianni che lo sento ancora io, si la può passare lo cuffio benissimo, anche se c'è l'antenna corta. Riprendi già. Dai, lo sento anche io, Sandro, Sandro, non so se tu mi ascolti, io ti ho ascoltato quando mi dia più messaggio. Non si può pretendere che quella corta vada bene come quella lunga. Io l'ho misurata, Giulio, perde due di più, esattamente, tolta una e messa l'altra, con la macchina ferma, due di più in meno. E niente hai detto tu di B, che cazzo sta? Sai cosa vuol dire? Ogni di B i segnali te la doppia, lo sai Gianni? Non è poco, cioè in poche parole, se tu mi arrivi per dire Santiago su 3, tanto per fare un esempio, e per dire 1 dB, mi arrivi Santiago 0, magari la radio la sento lo stesso, però la sento bassa. Ogni dB, ricordati, la radio frequenza, per ogni dB si guadagna sempre 3.1.S, cioè cosa sto dicendo? Aspetta, sì, ogni 3 dB, ma accidenti, adesso mi sto confondendo io. Ogni punto S si guadagna 3 dB di segnale, capito Gianni? Certo, comunque per farla chiara, da l'antenna piccola 9 e l'altra 9.10, capito? Non è molta la differenza, perché l'antenna è anche stata autocostruita, quindi diciamo che è una cosa ben riuscita, perché c'è anche poche stazionali e tutto. È soddisfacente la cosa. Tocca sopra di soffitti, se mi dimentico quando vado a fare la spesa, se in quei garage di Mutilese è troppo, invece comunque se non tocca la vicina a parte. Questo sì, indubbiamente, questo sì, ma non ci sono dubbi, però devo considerare che con l'antenna piccola si ti sento, tanto per fare un esempio, fino che so io a Prague, e con l'antenna grande ti sento magari che so io a Mahomet, tanto per fare un esempio, ecco come il discorso. Comunque ogni punto S, naturalmente misurato con gli strumenti lì, non guardando lo Smith e i nostri strumenti, cioè lo Smith oppure il rosmetro che abbiamo noi, ogni punto S il segnale si raddoppia, sì, che ti puoi immaginare, no, non è poco, più carica. stazione Mantegna viene recuperata la meccanica però se l'antenna è più lunga si carica ce n'è di meno e l'emissione di segnale è superiore, ecco com'è. Avanti l'amico che voleva entrare, chi era? Buonasera Alessandro, qua la zona di Palmallo, come mi tirate fuori, buonasera anche dalla lotta. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Gian, se tu sei arrivato, ciao, buon lavoro, ci sentiamo. Sì. Chi è? Benigno, su, sì. Sono questo arrivato Giulio, lo so come sul lago e ti ascolto. avvisare, mi fate sentire, non ci sono problemi, ci mancherebbe altro, anzi, ci fai anche un piacere se ci fai compagnia, tu la fai a noi e noi la facciamo a te. Ok, avanti Berillo, ci avrei sentito bene adesso ad Alessandro. Sentito forte perché sono andato a aprire la porta, già lo copio bene io sentino lo stesso. Cappa di Rogero, eia. Lo sentivo anch'io giù. Lo so, è una strada favorevole per Sassari, no? Non è un problema. Adesso voi tenete presente che io sono in basso rispetto a Sassari di 90 metri, perché io sono a 135 metri, dove sotto casa io sono a 135 metri sopra il livello del mare, praticamente Sassari è 225, sicché fate un po' il conteggio quanto sono sotto, sono 90 metri sotto il livello di Sassari praticamente, e 130 sotto il livello del mare praticamente, ecco, cioè sopra il livello del mare, sicché vedi bene che qui a dei punti sembra una zona molto buona, invece no, non è proprio così buona, magari avessi avuto la possibilità di avere più segnale, tipo che so io come Monte Rosedo eccetera, oppure anche Latte Dolce è più aperto, poi ci sono le case molto alte lì e il segnale è molto buono, non ci sono problemi. Va bene, dai. Ciao Luca, comunque, come va? Qua. Uia. Ciao Graziano, volevo salutare ad Alessandro, figlio di Bobone, ma non sai che ti ha sceso. No, sta lavorando, il figlio di Bobone sta lavorando, dunque lo puoi chiamare, sicuramente ce l'ha acceso il baracchino e ascolta. Attenzione, Berillo Junior, se ci sia ancora. No, l'ha spento. Forse ha spento, sì. Infatti ha spento senz'altro. Sì, io lo sentivo forte di segnale, anche Santiago Nove arrivava, sempre, se ti puoi immaginare, era in movimento senz'altro sul mezzo agricolo, però ci sono stati dei momenti che mi arrivava Santiago Nove, solo che c'era in un primo momento c'era quella radio che non si capiva molto quello che diceva, era fortissima, però si mangiava le parole, la modulazione veniva inghiottita dall'eco praticamente. Tu così lo sentivi? Sì, appunto, non so fino a che punto ne valga la pena fare una modifica del genere per poi rovinare la radio, questo non riesco a capire. Comunque ognuno ha le sue idee, fa quello che crede, ci mancherebbe altro, quel professore di ognuno fa quello che vuole. Infatti, no, vabbè, già, forse magari quello è uno dei... ne aveva uno che era modificato così, però ecco, troppo veloce. E vabbè, comunque andare, ognuno può fare quello che vuole con i soldi propri. Da un attimino arrivo subito. Avanti, grazie, a riprendi. Ciao Luca, ben risvegliato, tanti inteso cacchenni. Ehi, pisolino pomeridiano. Adesso mi alzo un attimo, arrivo subito, riprendete. Eia, Giulio, solo io non me lo faccio il pisolino. E tu cosa hai fatto? Ti hai mandato lo delle firme, ti hai mandato l'acquario, cosa era? Dunque, sei contento lo stesso. Ma io ho guardato, non è tutto molto ciclismo, poi stavo guardando il Giro di Francia, la prima tappa, sono arrivato al traguardo, però avevo tolto l'audio, se non capivo niente del baracchino, e allora non ho capito che ha vinto. Adesso lo sto guardando, c'è la maglia gialla qua, però non so chi è, ma dopo già guardo il televideo e così so come si chiama quello che ha vinto, perché la volata l'ho vista, però non ho capito che ha vinto. Ha ricordato una trampata che se ne sono montati una ventina poco fa, hanno fatto vedere un'inquadratura, allora, sono caduti quando erano tutti in gruppo, una ventina tutti quanti, uno sull'altro sono caduti, mamma mia. Le cose ciclistiche sono così, specialmente quando sono in gruppo. Se ne cade uno, cade le tutti uno in alto all'altro. L'avevo visto io un giorno, qua, l'anno scorso mi sembra. È trappato il primo. Ecco, due o tre sono riusciti a arrabbiare tutti l'altro, uno è andato all'altro, quindi proprio l'ambulanza, ivi, a cui è nervosi, qualche uno già si è rialzato e gli hanno sostituito la bicicletta veloce veloce, lì, tutto al volo. Già sono belle, però noi mattina assai a me, prima all'indietro già me lo guardavo, anche le moto, ma le stufate non me lo devo guardare, mi piacciono un sacco di documentari a me, sia marini che sia documentari di paesi, di città, anche dell'estero, sono ben belli sono. Io vedo un po' di cose, fanno bene le cose principali più belle, capito? Già fatemi vedere pure in certi posti le parti di rimorchi di bambi per vedere dei gladiati, ma fanno vedere anche le parti più ricche là della zona e tutto, però dietro bovano a venire un bel pugno, mi sa venire più in chi si sono che non in Italia. Beh, indubbiamente, sì, ma è così. No, io lo guardo sempre, ci dico, io gli sport che guardo sono praticamente quattro. Guardo il ciclismo, il motociclismo, il calcio e l'atletica leggera. Poi gli altri sport, sì, così un'occhiata, ma non mi interessano più di tanto. Ah no, anche il pugilato guardo, quando c'è l'incontro di pugilato anche quello guardo. Praticamente, ma poi tipo pallacanestro, tennis, rugby, tutte queste cose qua, nel nuoto, no, di queste cose non mi interessa, non le guardo difficilmente. Comunque quello che più mi attrae di più è naturalmente il calcio e poi il motociclismo, sì, non la Formula 1, la Formula 1 non mi piace, non ci vedo nessun spettacolo io della Formula 1. Con la moto sì, perché quando entrano in curva si piegano, resti da toccare il gomito per terra ed è uno spettacolo veramente, poi fanno certi sorpassi straordinari, soprattutto oggi Rossi era un demonio, oggi ha vinto la grande. Mentre invece la Formula 1 si è sempre 4 su 4 ruote, lo spettacolo per me è inferiore a quella del motociclismo, anche perché nella Formula 1 come persone diciamo così che vincono proprio ce n'è uno, due di quelli forti, invece nel motociclismo ci sono almeno 5 motociclisti che sono uno più forte dell'altro, sì, che un giorno vince uno, un giorno vince l'altro e sono uno meglio dell'altro, soprattutto questi giovani che si sono affacciati adesso nel motociclismo, tipo Marquez, Lorenzo, che è campione del mondo in carica tra l'altro, oggi quello ha corso, pensa che giovedì quello lì è caduto, si è fratturato la spalla, aveva una frattura scomposta, gliel'hanno sistemata, ha preso l'aereo dall'Olanda, è andato in Spagna, si è fatto operare, gli hanno messo una piastra con 8 bulloncini nella spalla, l'hanno cucito, l'hanno il taglio, ha ripreso l'aereo e è andato in Olanda per fare la gara oggi, ma c'è questi che resta di coraggio che ha avuto, nonostante tutto con la spalla fratturata è arrivato quinto, capito? È fortissimo, lui è spagnolo, Lorenzo. L'ho visto l'altro giorno di quel ciclista lì, è andato, ci ha fatto fare quell'intervento e poi ha ripreso l'aereo per tornare lì a fare la gara, già l'ho visto già. Oh Giulio, aspetta due, tre minuti, va giù un prurito a rubire, ma appunto la valigia se la sei a rinunci, boh. O se no se me lo grato da bere pigi, che mi metto la pomata che già ce l'ho. Va bene, quando te lo grato il piede, non te lo grattare con le dita, con le mani, no? Vedi un pezzo di casa metrata, è figli, forte però. E allora sì, arriva all'orso. Ma la puntura riesci me lo, la puntura la consumi. E beh, Luca, rientrato sì. Chi è avanti? Peppe! E beh, grattato hai, scusi. E allora, boh, avanti non so questo, se la mazzita o magari qualche pulsa andrà a giocare a Drugani. Magari ve l'avevi attaccata, lo so di zucco, boh. E cazzo, a che punce, la cosa che fa? Mi dai un pezzo, un pezzo, mi dai tutti in giro, figli una cosa, mi dai pirata, mi dai un pezzo, così no, non mi dai più mai a sola. No, io invece di biliardo rugare me la giuriato vicino, si tocca biliardo da Eda. Attento Giovania. Giovania in campagna oggi, me l'ha detto ieri. Ho capito. Aspetta che ci deve essere Antonello, forse sta chiamando. Antonello, tu sì? Antonello, ti sento. Grazie, Antonello, senti Antonello Pupugno? Avanti Antonello. Sento un bu basso, però non riesco a capire chi è. Mi senti tu? Giulio, io non lo comprendo. Ma chi lo comprendo? No, sta piantando l'antenna, sta piantando. E lei da tanti da notizio. Sapeva di come sta a modulare lui. La cosa è animale, non si capisce niente quello che dice, non c'è segnale, non c'è radio, non c'è niente. Metti la nuova quarantena, tanto lei, butta via tutto, metti la nuova. Ma tu sai che hai fatto un fischio, non capisco niente. Vado a piacere dei fantasmi, io ci chiedo malacchino. Arrivi nei segnali, così non si comprendono accidenti. Non è che ha fatto la fine di Fantuzzi, no? Tanto lei, la fine di Fantuzzi è fatto. Tu lo si intende, dai. Sta piazzando l'antenna in una macchina, deve essere, non lo so, boh. L'antenna di questo capinuccio, o gabbio, quel che ha detto. Ma non esce. Come lo malacchino che lo serve, non voglio ne so quello, boh. E vabbè, dai, già si farà sentire. Dopo, se ci riuscirà, si chiamano. Allora, quel ragazzo che gli ho mandato io di la parata di la figa, e gli ho detto di andare da lui, la settimana scorsa l'ho sentito. Ok, tanto bello, mi avete già telefonato, perché gli ho dato il numero di telefono e ci sono messi d'accordo. Magari sarà andato oggi, anzi, sì, perché mi ha detto che stava mettendo l'antenna a questo capinuccio, stava mettendo l'antenna, ma è sul camper mi sembra, quello di vero? Ehi, però no sul camper, sulla Jeep, c'è la Jeep, e lui se l'ha piazzata dallo sportellone di dietro, praticamente in una zappa che regge lo sportellone, nella cerniera. Però era i scenni, però gli ho detto, noi stiamo facendo molto bene, poi gli ho detto se aveva controllato le stazionarie, perché l'antenna voleva regolata con lo strumento e tutto, mi ha detto che non aveva lui, ma con Isabia che voleva registrata con il rosmetro per vedere se c'era la stazionaria e poi voleva registrato lo stile e tutto quanto. E allora gli ho consigliato di andare da Torello che già non lo strozzava e gli ho dato il numero di telefono e così di Torello mi ha già telefonato e gli ha dato l'appuntamento. Ho capito, no, io ho sentito che dovevo cambiare questo filo. No, non lo so, comunque, attenzione, ma vado a dirci. So che aveva sì la antenna, una macchina dove non c'era capota, o perlomeno che era una cabriolet, oppure, ma forse era quello che aveva la sbarra, che aveva messo la sbarra a portapacchi, aveva attaccato l'antenna sulla sbarra, forse era quello, non so, ma se così non va bene lo stesso, perché se la sbarra non fa contatto con la lamiera della macchina, non c'è niente da fare, è inutile stare in chili, comunque esce solo con filo caldo e basta, no? con la massa, capito? Grazie. Ehi, aspetta, mentre rimane giunato ad aprire. E infatti gli avevo consigliato io che potevo fare anche così con la sbarra di portapacchi, era migliore di metterla dove l'aveva messa lui. Aspetta. Giulio. Dimmi. Aspetta 5-10 minuti che Paoletta sta pulendo la controfinestra ed è sulla scala, ossia chi la mantengo la scala. Va bene, grazie, d'accordo. Già si chiama appena finito. Vabbè, è possibile perché già ho detto, ma oppure ha fatto la fine di Fantuzzi. Da lui la fine di Fantuzzi? Già Giulio, hai visto che già era lui. Allora, no, ma se non era piazzando un'antenna, capito? Ecco perché non lo sentivamo. Era con quell'amico che dicendo lì, che sentivamo basso basso, quando ieri, anche tu scegli, mi sembra ieri, o perché ieri, quando era la sia? Anche ieri mi sembra, beh, piazzata gliela, adesso da lì sta chiamando. A Tony. Oh, sto già dicendo a casa io. La tela è piazzata, solo che non rende la cosa dei capitoli, non ce la fa, non serve a nulla in teoria. Io ero convinto che, vabbè, il cavo doveva cambiare perché era vero, quello sì, però non ha cambiato niente lo stesso. Guadagno proprio ce n'è stato, capito? Beh, allora se tu lo sapevi, ma l'ha comprata nuova oppure è usata? Ma io l'ho caio per provarla, capito hai? E beh, allora gliela devi cambiare per forza, e se no ha fatto un buco nell'acqua. E se per lasciare un po' di soldi si compra la manta, ma vedrai che lo sentiamo anche a sorso. Ehi, a sorso sì, perché tu ti farà davvero giù. E allora, a sorso già lo sentiva Franco, ti ricordi che c'era anche Franco, e dunque lo sentiva bene per Franco, e lui a sorso a un passo da Signori, già lo credo lo sentiva. No, ma lo sentivamo anche noi, lo sentivamo, basso ma lo sentivamo anche noi qua. Sanno che oggi invece non arrivava proprio. Ehi, vuol dire che quell'antenna ha tre elementi che a lui stava dicendo. L'altro giorno ha detto così, c'è l'antenna lì, c'ha tre elementi. Lui aveva detto, poi non lo so. Cosa vuoi che ti dica? E vabbè, si compra la manta, vai, vedrai che già esce dopo. Non ci sono problemi. Sì, ma c'è in tasca 120 euro, così è Giulio. E allora, più o meno, è tranquillo lui. E risolve il problema. Aspetta, grazie, che stavolta passo a te con la mola e risolve il problema. Ehi, vieni da me che già lo fai l'affare, c'è sta radiali, tutta la bigorra, e Pignani chissà quante penne ha ucciso come l'ha pigliato. E adesso, ciao, avanti. Sento benissimo, ti sento adesso. C'è Pomponio in macchina che sta rientrando da Seno verso Sassari, e sempre Graziano. Avanti Graziano. Ciao, ben risentito, cappa che ti copio benissimo, tranquillo, bene bene. Anch'io quando ero in quelle coordinate, lì a Sentino Capo Falcone, qua arrivavo benissimo alla stazione di casa, da lì. C'è il cancello del custode amico mio, se c'è la piscina, l'entrata sulla destra, sali le scaline, c'è una bella piscina. E poi c'è un cane, che ti aguanta bene. Eccolo qua, eccolo qua. Ciao, sono qui. No, ciao, buonasera, ben sentito anche a te. Il cane non gli fa niente, adesso glielo do io e lascia passare, lo devi abbagliare tu al cane tre volte, gli fai e ti lascia passare. Sì, ma Graziano, non è che parte qualche fucilata, no? Oh no, tu fagli tre abbagli e lui capisce già che ti ho mandato io. Ok, dai. Dai, comunque adesso incomincio la discesa, magari mi perdo la prima. A te, ok, adesso, sì, sì. E può essere di noi invece, può essere che ti sento lo stesso. Adesso vediamo, dai. Adesso, ci danno questo momento, ti sento bene, non ci sono problemi. Dunque, figurati. Anche se sei con l'antennino corto, va bene lo stesso, senza nessun problema. Va bene, avanti, buon pur. Rientrato sia Sassari. Sì, sono già al monte. Sei già al monte, sì. Tu sei l'uomo del monte, allora, in questo momento. Sì, l'uomo del monte sono. sempre più su, sempre più su, Antonè. Comunque quel cane lì, amico mio, il padrone l'ha avuto, dentro la vicina galleggiante mi rimancava che si è perso. Il padrone mi potuio, no, e allora qui, vediamo un po' Alessandro che sta scendendo adesso lì, da Capo Falcone, se lo sento ancora, a parte Alessandro. Sempre bene Alessandro, sempre bene, nessun problema, figurati. Avanti, grazie. Da, anche da parte mia ti sento sempre benissimo. Oh Giulio, vado a fare un chiumano nei ghibi, dentro quei residenze, unia santa lì nei ghibi, tutti i billetti vado a fare. Perché stavo piantando cancelletti antiscaccio in acciaio e in più le zanzariere e imbuttivo la striscia dove andavano attaccati i telai, no? A cemento, perché lì è tutta pietra e non dovevi fuori uscire il cemento, dovevo mettere una riga appositamente che mi ho fatto doppia con lo spazio vuoto, bloccata con due chiodini, perché poi dopo spostare il chiodino e la secchietta più giù e imbutti la sabbia e cemento e cemento rapido per fare una cosa veloce. E nel frattempo ci filavo i tassi lì quando era fresco per attaccare appositamente questi cancelletti antiscaccio, non si arrugginivano mai, due di lui si è appigliato, tutto arrugginito Gesù. Registrato Becco, ma tu lo sai che Capo Falcone quando è nato l'ho fatto io lì, il lavoro da Capo Falcone, ad esempio il bar che c'era all'interno, che era rotondo, tutto in legno, poi tutte le vetrate della veranda che scorrevano le avevo messe tutte io, sono come vedere di 45 anni fa almeno o di più, aspetta, dal 1960, dal 1966, una cosa del genere, 65-66, le avevo fatte io tutte quelle cose lì, e poi ho passato a Roccaluia, allora anche quello avevo fatto, dopo qualche annetto, uno o due anni, una cosa del genere, le avevo fatte io quei ristoranti, quelle, capito, grazie. Va bene, avanti Brecco. Buonasera signor Giulio, buonasera. Ben sentito, ben sentito a me loro, dai, ma mi sfugge il nome, Graffiano, ben sentito anche te, stazione Uranium, vai, stazione Uranium, volante, buonasera a tutti e due, dai. Bene, tu sei Giulio che è un ottimo estro falegname, ok, bene, no? Se ti sei ricordato della nostra conoscenza in verticale, vediamo un po', fai mente locale, se non ti sei ricordato adesso ancora fai mente. Ok dai, buonasera, comunque di nuovo a Pidua, dai. Riprendi Giulio, bisogna stare un po' su io, come sto arrivando, sto trovando questo vecchio apparecchio di vecchia lata a capa, vediamo di dire come ti arrivi in questo passaggio, in questo e in quest'altro, ok, riprendi Giulio, avanti con la buonasera. Un attimo Giulio. Sì, avanti adesso, un attimo Uranio, avanti adesso. Cappa dai, saluto Uranio, voglio vedere se Uranio riesce a ascoltarmi. Ciao Uranio, Sandro qui in Sentino. A voglia ti sento, a voglia, se stia a Sentino, qua sta arrivando. Se non ho visto male, mi pare che sta arrivando un segnale di 7 e una radio di 5 a bomba qua sta arrivando, non stai scherzando mica lì da... se non ho capito male se si è sentito, Bene, ok, sta arrivando benissimo qua, Gatta, dai, ok, scusate un attimino, era giusto una prova che volevo fare. Ok, rilascio a te il mic in studio, dai, io devo fare un'altra tappa, ci sentiamo tra un po'. Ok, adesso, sì, anch'io ero curioso di farti fare quella prova, infatti ti volevo rilanciare per fare quella prova proprio con l'Uranio, essendo lui a uso, così, per bene, ma curiosità anche mia era quella, va bene così, non ci sono problemi. Sì, allora, il tuo segnale prima era di 2 e poi è salito a 4, sì che comunque quando è 4 radio o scarsa per il segnale radio, e allora no, Antonio Pompugno non è riuscito ad avere un risultato buono perché stava piazzando l'antenna eccetera, dovrà mettere l'antenna migliore di quella che appunto stava installando. Vediamo un po' intanto se Pompugno è arrivato a casa. Avanti Pompugno. Sei quasi 120 da casa, salvo, dai. Vi lascio a vostro consiglio, ci sentiamo dopo da casa mia, là. Ok, d'accordo, un po' ci sentiamo, dai, ciao allora, alle prossime. Avanti, grazie. Ehi, ok, Antonella, a dopo, ciao radio, ben sentito. Giulio, ti volevo dire che io di quelle vetrate scorribili ne ho restaurato parecchie, un po' ci ne erano riparati, tutte sverniciate, anche le verande, ho dovuto levigare a pallerina, a rinfrescarle e tutto quanto, ne ho fatto lavori lì per conto di quello là. Quasi, dal 1967, 66, 66, 67, forse anche 65, sì, perché io quella ditta l'avevo abbandonata nel 67 e nel 66, 65, con le vetrate le avevo piazzate, le vetrate grandissime. Mi ricordo una sera, quando lo stavo piazzando, siccome sono messi con i binari scorrevoli, no, con quei, è tutta la serie di cose, no? E avevo bucato e ha incominciato a scendere acqua da questa tavella, è stato più di una settimana sempre scendendo acqua da quel buco che avevo fatto col trapano nel solaio per attaccare, non la trave veramente, non il solaio, era una trave, ma forse era pignata, non lo so, buh. E adesso si vede che c'era il tetto pieno d'acqua come aveva piovuto, ma tu non ci crederai, è stato una settimana scendendo acqua da questa pignata, c'era il tetto, deve essere pieno d'acqua, e si è scaricato tutto da quel buco che avevo fatto io col trapano. Beh, sicuramente sì, perché molte villette lì non le hanno mai fatto manutenzione. Ho dovuto rifare anche delle finestre nuove addirittura, smurarle e rifarle nuove, perché erano i prati che praticamente mi erano prendi, quella era gente tutta di fuori, mi ricordo una era francese che in questo periodo c'ero anche, che sono andato con Panzoni, si era innamorata di Panzone e l'aveva detto a me chi dà di figlio, e Panzoni va via a Lernia, va via, no due palle, no, due cucumari, di cucumeri, di chi di lormi, pendolori. Figurati, già si poteva presentare, sì, a quella, no, non è possibile. No, io, ripeto, io sto parlando, sì, anche qualche villetta avevo fatto lì, di un dottore, eccetera. Però io avevo fatto principalmente, prima di tutto, Capo Falcone, il ristorante di Capo Falcone, lì, che poi c'era anche Pinuccio Manca, avevo fatto anche dei lavori, Pinuccio Manca, avevo fatto quello che una volta era lì, nella salita, in una traversa di Via de Mameli, c'era Pinuccio Manca, con l'altro falegname. Io avevo fatto lì il bar, avevo fatto, che era tutto quanto in pino giallo, mi sembra che era, un pino giallo, un legno senza nudi, senza niente, se con una fibra tutta dritta, proprio bello, c'era, ed era rotondo questo cosa all'interno, no? E poi quando si apriva c'erano le persiane che aprivano a metà e rimanevano sollevate i basculanti in alto, rimanevano, avevo fatto quello, poi tutte le vetrate avevo fatto, soprattutto quelle della veranda, che sono vetrate grandissime, più grandi, e certi vetri cazzo, che pesavano un trono, un blindato, lui era un solo papiano bledo. Mi ricordo ragazzi perché sa, quando stavo piazzando, nel momento che avevamo fatto pausa per il pranzo, c'erano due tamburlane, c'erano due tavole come punteggio, no? Perché non avevamo cavalletti, avevamo messo due tamburlane, una parte e un'altra per sollevarci, no? Per arrivare in alto. Beh, il giorno era una giornata molto ventilata, ragazzi, arrivi da un colpo di vento, tu dovevi vedere queste due tavole volando in aria, sembrava un pezzo di carta, sembrava volando in aria, queste tavole lunghe 4 metri, io grazie. Una cosa, ragazzi, il giorno ridicola proprio, eh. non ce l'avamo sul ponte. Noi eravamo magnani in un momento, stavamo pranzando. Vabbè, vediamo se Alessandro è ancora rientrato. Avanti Alessandro, sì. No, non riprende, si vede che si è fermato per lavoro, capito? Lui va per lavoro in giro. Tutti i clienti sono andati a passeggiarlo, lui è andato a lavorare. Avanti, grazie. Caro Soggia, fa le consegne. Vabbè, riprendi Uranio, che se no dopo ti metti a piangere lì solo soletto. Sì, non andate a piangere, non ti preoccupare, io sono abituato io a stare solo, grazie. Non ho dei problemi di stare solo io. Negativo, se tutti i problemi sarebbero stati di stare solo, allora sarei stato tranquillissimo, invece purtroppo ne ho altri di problemi, diciamo, più seccanti di stare solo, tutto lì, oggi vedi un po' se in questo passaggio senti qualche effetto ecco nella mia modulazione, riprendi grazie. Ti riprendo io? Sì, c'è l'effetto ecco, ora. C'è, no, va bene così com'è. Lascia l'attaccato, il linearetto che già va bene così. È più forte, molto più forte la radio e anche il segnale va meglio. Avanti, grazie. Quanto ti arriva, Matteo Lanio? Grazie. Già lo sento bene, aspetta, riprendi più radio che hanno suonato. Ok. C'è l'apparecchio diciamo fuori portata di pista e diciamo di provare ad andare con tutto, va bene, lo farei, è interessante che mi senta, dai, ok, tutto lì, ma tu stai usando sempre il Galaxy, così è, perché il Galaxy ce l'ho anch'io, come ti avevo detto da tempo, e quell'apparecchio lì c'ha diciamo un gruppo vizio che dà controlli bassi, capito? Quello lì dà controlli bassi, perché ce l'ho anch'io. Tu qua lo sai quanto mi stai arrivando? Mi stai arrivando Santiago 7 qua. Se attacco il Galaxy mi arrivi Santiago 1 o 2 massimo, non di più. Ok, vedi un po' che razza di differenza c'è tra i Galaxy e questo apparecchio che sto usando adesso. Ok. Riprendi giù. Sì, ora già lo so, è così, sì. Vabbè, basta regolarlo, sempre quando lo smette non ci sono problemi, basterebbe regolarlo, però lascialo stare com'è che già va bene, perché tanto anche se arrivo Santiago bassissimo di radio arrivo sempre, perché il gara si è fatto così. Lo smette ce l'ha un pochino a mano, però la recezione è buona, buonissima anzi. Anche Santiago zero la radio si sente sempre, sicché non è un problema. Lasciano così com'è. Lo so, infatti sto usando anch'io il Galaxy, sto usando. E dunque me ne rendo conto. Infatti tu mi stai arrivando Santiago 4, qua ti puoi immaginare, con lineare. Santiago 2 senza lineare, perciò basta solo quello per capire quanti avvano lo smettere. Non ci sono. Invece quando incomincia a superare il nube, allora è giusto, vedi? Se tu noti bene, quando arrivano segnali che riesci a superare il nube, allora il segnale è giusto, è buono, perché io l'ho confrontato con altri apparecchi che ho qua e va benissimo, è perfetto, non ci sono problemi. Mentre invece quando il segnale è più basso del 9, 8, 9, allora è avvalo, molto avvalo, si nota veramente. Va bene, vediamo se è rientrato l'anziano, grazie. E ancora non è rientrato, là. Si vede che ha ospiti, che è andato a aprire la porta, è andato a aprire. Capito, ora, così è la storia. Sì, ho capito, Kappa e Roger, è solo che il mio c'ha un difetto, c'ha pure, quello perché l'ho portato a controllare, Roger, ma ascolta, lì una volta lì, diciamo zona lì su Viale Trento c'era un elettrotecnico, c'era lì che faceva apparecchi baracchini, faceva apparecchi nautici, ok, riparava di quella roba lì, là aspetta se mi viene il nome, elettronica soddisfatto perché mi ha fatto un lavoro, diciamo, di lusso, Roger, quindi, ci sono riandati, io l'ho portato nel 2000, ho fatto lavoro, questo lavoro del Turner nel 2004, e adesso, l'anno scorso ci sono andato lì e non c'era più lì, strano, no, non è che tu sai dove si è trasferito per caso questo qua, no? Lì, riprendi. Non lo so, se stai parlando di quel, negretto che c'era, di quello nero, di quell'uomo nero, non lo so, forse ha chiuso definitivamente, sarà andato in pensione, sicuramente. Di quello stai parlando, di quell'uomo che c'era, un uomo di colore c'era lì. No, che sappio, non ho visto nessun uomo di colore, era un giovane era, che avrà avuto una quarantina d'anni, non lo so, una cosa del genere, 45 forse ce l'avevo pure, no, era giovane, non era questione di regolo, negativo. No, non so cosa dirti, a meno che non c'era in quel momento, perché lì si è lavorato credo anche Antonio Pompugno. Beh, se hai qualche problema per i microfoni, lo fai vedere a Antonio Pompugno, lui fa questi lavori, già c'è un sistema, non ci sono problemi, capito? Ho capito, sì, no, perché c'ho un lavoretto qua da fare, mi pare che lo do a lui, però, cioè, ha accennato già un'altra volta, ok, c'ho il PV 2001 qua che non lo può controllare, dai, e quindi non so se siamo valvole o cosa c'è, o come stava dicendo lui, per l'appunto qualche, come vediamo si chiama quello lì, non transistor, no, a Napoli, non mi viene il nome adesso, vabbè, comunque c'è roba da controllare lì, perché non mi dà più accordatura, Roger, forse ho fatto qualche danno io, perché avevo attaccato quello lì a un'antenna di macchina, avevo pensato a un'antenna di macchina sul palo, sul terrazzo lì, e forse quello lì, quell'antenna mi ha causato qualche danno all'apparecchio, okay, quindi lo vorrei controllare, così magari la controlla, diciamo, una revisione attiva, diciamo, a tutto l'apparecchio e via, dai, per vedere cosa c'è e quanto ci vuole anche a fare la riparazione, ok, tutto lì, riprendi, visto che è così, allora dai, riprendi giù. Ok, quando senti Antonio Pompugno, parlane con lui, può darsi che lui te lo possa mettere a posto, perché lui fa questi lavori qua, ma capito, li fa per conto suo, dunque non ci sono problemi, perché io mi ricordo che lì dove stai dicendo tu, lì nel Trento, eccetera, e lì c'era un vario tecnico che era di colore, era un uomo di colore, e so che ci andava anche Antonio Pompugno, ci andava, comunque adesso, poco fa era frequenza, se me lo dicevi prima potevamo chiedere, adesso vediamo se c'è ancora. Aspetta, Antonio, ci sei? No, non c'è in questo momento, vuol dire che è a casa sua, adesso magari era anche con qualche amico, perché era in macchina e so che lui non guida, e dunque era con un amico senz'altro. Comunque mi aspetta, le faccio uno squillo, lo faccio entrare in frequenza, così glielo chiedi direttamente. Aspetta, scusa un attimino, dove è il telefono? Aspetta che prendo il telefono, un attimino. Giulio? Sì, avanti? No, Giulio, sto uscendo. Ti sto uscendo io? Sì, stai uscendo tu? Sì, sto uscendo. Adesso non sei uscito. Ma non sei uscito adesso, adesso? Sì, sei uscito adesso, però basso. Ho detto, era tutto questo. Hai iniziato, stavo uscendo e poi si è interrotto di nuovo. Non so cosa ti ha preso, Giulio. Non lo so nemmeno io, perché si interrompe, dunque, vediamo un po', adesso comunque l'ultimo passaggio già si è uscito. Ma questo, vedi un po', questo sta uscendo adesso, ho detto lì lavoravano in due, c'era Prospero, quello negro, che lavorava per conto di quell'altro bianco, che non mi ricordo il nome, perché il titolare era bianco, non era nero, lui ci lavorava Prospero, era un po' bravo quel ragazzo. Lo so, proprio, ascolta, è la tua frequenza che c'è qua. così tu dici direttamente lui. Cioè, su 5, su canale 5. Stavo dicendo, lui. Sì, Prosta, no? L'ho conosciuto benissimo. Era un amico di Emanuele, anche tra l'altro, Emanuele Piana, l'aviotecnico che è morto, eccetera. Ma io credo che anche Antonello abbia lavorato lì per un po' di tempo, E dunque, probabilmente può darsi che magari lo conosce anche Antonello. Orario, se mi stai ascoltando, stai dando in frequenza adesso con Pugno, così lo parli tu direttamente. Avanti lui. Oggi uno a momenti esce questa cosa, me ne accorgo dallo Smith. Più che altro giusto, riparavano televisori, erano bravi su. Facevano i lavori a scarpa, facevano assistenza a scarpa, se ti ricordi. Sì, non solo a scarpa, facevano lavori un po' per tutti, solo che scarpa era lì vicino e dunque quando aveva qualche problema è il posto più vicino, è più comodo soprattutto per Antonio Scarpa era lì, anche perché Antonio Scarpa era l'aviotecnico mio, io Antonio Scarpa l'ho conosciuto molto, molto bene, abbiamo lavorato anche insieme, quando io facevo l'elettricista lui faceva l'aviotecnico, andavamo insieme per fare antenne e tutto quanto, te vuoi immaginare, ci conosciamo molto ma molto bene, da più di 50 anni, di più di 50 anni, molto di più di 50 anni, dunque non ci sono problemi. Vediamo un po' se è entrato Pomponi, sì. Diventa qui, dimmi. Dimmi, c'è Uranio che ti voleva dire qualcosa. Avanti Uranio. Ok, Pompo, buonasera anche a te, Vulcano, ok, ben sentito, Ok. Infatti Giulio Pocanti aveva ragione lo stesso, dai, a momento uscivi, a momento non uscivi, adesso stai uscendo invece, dai, ci vede che qualche pensieria, magari il microfono, magari il tasto del microfono, secondo loro primi, non esce, dipende dal microfono forse. Benissimo, Pompo, ne avevamo parlato già l'altra volta, dai, un momento te lo porto, vuoi fare così me lo guardi, e c'ho anche altri lavori da fare, solo che un po' più avanti adesso si entra qualche altro lavoretto, diciamo, a Palmo di Mano, ok, Roger, dai, tutto lì, poco c'ho quelle BV 2001 da controllare, dai, per vedere cosa c'ha, perché non mi dà curvatura, dai, te l'avevo detto anche l'altra volta, riprendi poco avanti. Ok, scendimelo quando vuoi, basta, infatti già c'è il pullman, non c'è problema per quello. Sono un po' di moto, non lo so. E magari le parlo un amico, mi aiuta lui con la macchina a scendere, dai, se ne Puglia, se no pazienza. E ne ha ragione di altra maniera, perché dicevo la macchina, il pullman, era una parola pesante, quella fare, ce l'aveva. Ok, non è cosa da portare così, no? Ci vuole proprio la macchina, va caricato qua a casa e portato lì direttamente, ok, perché pesa, Io non so che pesa quello fare, non pesa un chilo, pesa una quindicina di chili o 18 chili o anche 20 chili peserà, non lo so, comunque è pesante. Va bene, dai, comunque vediamo un po' Roger, qualche giorno te lo passo, dai, così me lo guardi. Tutto lì. Va bene, avanti, Vulcano ci sei. Che sto controllando questo apparatino a vedere cosa gli è successo perché ogni tanto non esce, lo sto aprendo, dai, sto riprendi giù che sto in ascolto, che sto controllando perché non funziona, perché ho provato tre microfoni, se lo tengo con la mano funziona, se lo tengo con la mano non funziona più. Avrà preso qualche colpo e magari si è interrotto il circuito, la pista, probabilmente quello. Oh, lui controlla con la rete di ingrandimento la pista, può essere che ci sia qualche interruzione, come ti è successo praticamente per il gara, sì. Una cosa del genere, più o meno. E vabbè, avanti, riprendi ancora e dimmi se l'ha azzeccato più o meno. È positivo, no, devo controllarlo bene, no, perché questo è quello che l'adopero quando è chiuso il negozio, più semplice, più basso di tutto, dai. E niente, vedi, la sto tenendo con la mano e sta funzionando. Adesso lo do una controllata bene, ce l'ho aperto, riprendete voi, riprendi giù e fai girare. Gigino, fai come me, quando non fanno, prendi un avvitatore. Cosa fai come te, tu già sei poco violento con queste case qua. Stavo dicendo, Antonio, se sei ancora in frequenza, tu hai una curiosità, ma tu da posto l'avevi lavorato anche? Senti, insieme a lavorare, ma di cosa, che è morto, gli attori crudi. Come si chiama? Adesso non lo ricordo più, Antonio, tu lo ricordi? Emanuele, con Emanuele, c'è l'Emanuele Piana anche, oh. Sì, esatto, lavoravo con Emanuele in quel periodo. Io posso Emanuele e Alessandro, e poi in pratica stava sola che si chiamava Fabiana Paracchio. Infatti io già me lo ricordavo, me l'aveva detto anche Emanuele, me lo ricordo, sì. E vabbè, non è che lavorava proprio con Prospero lui, magari li portava qua a fare a Prospero Piana, era così, oppure Prospero passava a Piana, probabilmente, perché Piana lavorava sempre da quello di Roma, come si chiama, non me lo ricordo, quello con il negozio di elettronica di via Roma, che ci sta tutti tanti anni, che vendeva anche elettrodomestici eccetera, non me lo ricordo più come si chiama quell'uomo. Ha lavorato tutta la vita lì, ha imparato lì, si può dire, e poi da lì, quando è stato licenziato insieme all'altro anziano che c'era, signor Chicuni, si avevano aperto un laboratorio insieme in società, ed erano lì nella via dove ho la falegnameria io, no? Erano lì, erano a 100 metri vicino a me là. E dunque, no, ma ne avevamo parlato tante volte, capito? Avanti, Francesco, avanti. Ok, sto cercando di ricordarmi il nome di quel tecnico, però non mi viene in mente. Comunque, dovevo ricordare che usciva anche in frequenza, non sempre, però se facciamo anche in frequenza qualche volta. Mi pare, se non faccio sbaglio, mi pare che aveva il nominativo di Archimede, se non mi sto sbagliando. Massimiliano. Non mi viene il nome adesso, come si chiamava? Il nome delle negozio pure. Comunque con lui, infatti, stavamo guardando con un altro amico, per chiudere il sito internet, e il sito c'è sempre lì a internet. Cioè c'era, almeno che non l'abbia fatto adesso, sino a qualche mese fa c'era ancora il sito, sino all'anno scorso però tutto c'era il sito, il numero di telefono, tutto, via, perché sono andato a telefonare, ma che il telefono fisso nulla è staccato, non c'è più il telefono, ok, tutto lì. Va bene, dai, comunque, se mi ricordo il numero, già te lo dico, è probabile. Magari più tardi mi vanno in mente, non so, magari quando sono preso glielo chiedo. Va bene, dai, comunque c'era anche un altro amico che lo conosciamo benissimo, che è sparito, lui non ho più sentito, porca miseria, che lo conosciamo pure in verticale. Se ti faccio il numerativo sicuramente lo conosci, appunto sto parlando esattamente di Vittorio Giove, quello lì era un bravissimo elettrotecnico, ok, quello lì lavorava da Saba, ok, mi pare lavorasse da Saba quello lì, la Saba fa diciamo riparazione per la Philips, ok, ripara l'apparecchiatura della Philips, televisore della Philips e altri vari apparecchi, sempre della Philips, ok, in via Torino, non so se ci sia ancora, però già di un sacco di anni, quindi non so se ci sia ancora lì, ok, non si sia trascritto. Va bene, dai, riprendi giù. Ok, no, quello lì si trova in via Mosca adesso, quello lì al laboratorio via Mosca, Vittorio. No, ma forse tu stavi parlando prima dell'altro, ma non stavi forse pensando a Massimiliano per caso, ti dice niente questo nome, che era di fronte a Scarpa lì, c'aveva il laboratorio, o ce l'ha ancora anzi. Ricordi Massimiliano per caso? Bravo, Massimiliano, sì, Massimiliano, esatto, porca miseria, esattamente, Massimiliano, sì. Quello lì aveva il laboratorio, visto che via Lepento su, sulla destra, su, quando fai la salita, c'è la farmacia lì, fai lì, vai un po' più avanti, 10 metri o 20 metri, non so, forse di meno, è una decina di metri, 15 metri, dai, lì c'è l'incrocio, lì c'è il bar di Lucca, mi pare, non so che bar si chiama lì, e lì giri sulla sinistra, un po' passata la farmacia lì, e lì era sulla destra lì, però non c'è più perché ho controllato io, tramite un altro amico mi aveva dato un passaggio lì, al posto di quello lì a tal punto c'è una banca, non c'è più lì, ok, vabbè, così Vittorio Giovici è via Mosca, oh, porca miseria. Va bene, bene a saperlo, ok, riprendi giù. Ok, Francesco. Non so, se stavi pensando a Massimiliano, è lì. Massimiliano Paolo lo trovi sempre lì, perché la Massimiliano fa lavori anche sui ponti, fa tutte queste cose qua, sui ripetitori, fa un sacco di lavori lui, non è sempre che lo trovi lì. Io il numero di telefono ce l'ho, se no magari l'avrei potuto anche chiamare, ma il numero di telefono ne ho. Comunque, ritornando a Vittorio Giove, invece in via Mosca, il laboratorio ce l'ha in via Mosca, non so se ne fa di questi lavori, provo a chiedere, non so cosa dirti, ma mi risulta che lavori di baracchino difficilmente ne faccia, Vittorio. Massimiliano sì, Massimiliano fa queste cose qua, radio, luce, trasmissione, ripetitori, antenne sui ponti, eccetera, eccetera, capito? Tutte queste cose qua. Non so cosa dirti, prova a interessarti e poi troverai, non lo so, oppure ripeto, come hai detto tutto senso, un po' calcio, non è buon pugno e ci penserà lui, che problemi ci sono? Un buon pugno, il suo lavoro è quello, viverà quello, ti puoi immaginare, perciò fidati di lui e basta, non so cosa dirti. Vabbè, voi se vi mettete d'accordo, se qua frequenza buon pugno, mi hai già detto che lui lo porti, fidati di lui, portagli il microfono, portagli il lineare, portagli tutto quello che ti serve da controllare e ti arrangi con lui. Va bene, avanti Luca. Via, cambia tuo micro, ora, forse non è questo qua meglio. Oh, chi è questo Francesco? Non l'ho mai sentito. È Uranio da Usilo, però è in una zona un po' critica e diciamo che non arriva molto bene a Sassari. Vabbè, comunque già si fa sentire lo stesso. Tu lo senti bene, sì? Ma poi va benissimo, Urano, mi ascolti. A voglia ti ascolto, qua sta arrivando Santiago 7, Radio 5 a bomba qua, non so come ti stia arrivando io, prova a darmi un corre capo anche a me lì per vedere come ti arrivo. E vabbè, ok, giù, ok, adesso ci ha tolto il problema, vai, quando vediamo un po' contatto con l'amico lì con la macchina, così se mi fa il favore, lo porto da Torello, allora, dai, da Pompugno, così me lo controlla lui, dai, sarei a fare un sacco di giri, perché tanto l'avevo già accennato a lui, solo tanto per vedere quello lì, perché non c'era più lì, ok, va bene, avanti l'amico, allora, come ti sto arrivando io, comunque, come ti ho detto prima, come sta arrivando un segnale di 7, tu una radio di 5 a bomba perfetta, mi stai spaccando qua la colonnina della parecchio, porca miseria, riprendi, avanti. Sempre Luca qua, segnale idem, però a picchi positivi tu, verso 8 picchia, aspetta che abbasso un po', ok, allora vabbè, dai, va bene, ti ascolto bene, non c'è problema. Anche fischietto, chi è? Tonello! Dimmi! Buonasera a tutti, a me, come mi ascolti? Bene! Le orecchie! Grazie Antonello! Grazie, mi ascolti bene, vedi che... E sei in macchina? Ah, sono in macchina, dai, sono sopra quella montagna che ti ho fatto vedere! Come arrivo all'amico di Usilo? Dipende da quella montagna, sì, qua sta arrivando Santiago Nuovo, alle 5, dai, avanti l'amico, io come sto arrivando lì? Non lo so, non te lo so dire, stai arrivando a Bomboletta, però te lo so trasferire io, quindi non riesco a vedere, a Bomboletta, però io ti sono di fronte, sono nella zona di Sennuri dove c'è il ripetitore in videolina, quindi oggi lo sono di fronte, lo vedo tutto intero. Allora sei in posizione buona, sei di fronte a me, per quello che sta arrivando forte tu. Ok, benissimo, come sta arrivando, perfetto. Una favola qua, il tuo segnale, e anche la tua radio. Ok, rogerissimo, va bene. Tutto lì. Benissimo, Luca, Roger, sì. Riprendi giù, dai. Ok. Adesso io ti sento, sì, Gabri. Adesso non è come ieri, l'altra volta ieri, no? Che eri basso, Santiago 2, ma arrivavi appena. Adesso già sei forte, visto? Tu, a te ti conviene trasferirti lì in macchina. Moduli da quella montagna lì, almeno non hai problemi di altezza. Bene, mi senti tu a me adesso lì. Ma io sono stato bene anche a casa giù, però il problema è che l'altro giorno ti arrivavo almeno a Santiago 2. Oggi neanche quello riuscivamo a farlo uscire. Ma che te l'hanno sventrata quella azienda? Ma anche qua arriva bene, non so dove si trova, ma arriva bene anche qua. Ah sì, non si trova. Sì, certo, capì. Adesso tu, tanto per darti un'idea, sai quanto mi stai arrivando adesso qua? Mi stai arrivando quasi 9-10, ti puoi immaginare. E sei in macchina, come vedi, l'altezza è fondamentale per queste cose qua, per la radiofrequenza. È fondamentale l'altezza. E soprattutto adesso, considera che prima eri in macchina, cioè eri a casa, e dunque con un'antenna di casa che dovresti uscire meglio. Invece adesso esci meglio, essendo con l'antenna della macchina, però sei in una zona alta, quello è importante. A te ti conviene comprarti un'antenna come si deve, e poi ti metti un palo magari robusto, però più lungo, in modo da arrivare bene a Sassari, perché poi riusciamo ad ascoltarti tutti quanti se fai così, capito, va bene? E ne prende la barra, va, capisci, che viaggio non mi tratta io questa sera. Ma cosa stai dicendo? E chi te l'ha messa a posto quella sera? Ce l'ho più lui, quella lì, avevo fatto i soldi da quella. Da quella, avevo fatto i soldi. C'ho la 2001 adesso in macchina, la vita Antonello. E dove tu canterai quella sera? Cazzo, ma lo sai come esce quell'antenna lì? Un bombo M. Sì, ci avevamo lavorato un paio d'ore sopra, capo. Eia. Adesso ti metto un linearetto qua sotto il sedere e vediamo un po' come esco. Ma ci avevamo dato una Daniele, lui, una BC6, che si aveva piazzata nella tipo e usciva bene. Non so se c'era ancora un'antenna. Usciva era una meraviglia un'antenna. L'avevo piazzata io. Piazzata era come tratta. Era una bomba. Ma anche la 2001 va bene, la 2001 in vettura va per una signora antenna, e poi non lo so se lui ce l'aveva nella cappotta della macchina, sicuramente quella rimessa a centro cappotta è il circuito già, che funziona bene, e poi quando va in alto per forza si fa sentire, poi quando lui è salito sicuramente alla parte per andare verso l'Ulvi, quella parte lì figura più un po'. Quella testa lì è fenomenale. Tu pensa che mi arriva più forte lui, mi sta arrivando più forte di te in questo momento, lui, ti puoi immaginare. Vabbè, tu stai usando il baracchinetto, quello l'avevo fatto, d'accordo, quello che vuoi, però mi sta arrivando anche più forte di Luca, pensa un po'. Ma è fondamentale, ma io lo sapevo, ma lui sembra meraviglia, perché con Signori io praticamente ci sentiamo senza bisogno di usare il microfono, basta sollevare la voce, ci sentiamo così, ma lo so dagli anni passati. Ecco appunto per quale motivo dicevo che sta arrivando 9-10, sta arrivando qui alla grande, proprio benissimo, proprio un segnale stabile, bello, capito? Avanti ancora, Gabri, ricordati che c'è anche Uranio da Usino, riprendi. Eia, ti sto guardando, amico, cosa stai facendo? Sei affacciata alla finestra. Allora, sono affacciata alla finestra, per quello che mi senti bene, ti sento benissimo anch'io. Ui, se ti abbassi l'immagine. Vediamo un po', avanti là. Beh, ok, benissimo, bene. Ok, dai, benissimo, ho risolto il problema del tecnico. Andiamo d'ora. Va bene, dai, tutto lì. Allora, ricordatevi di questa conoscenza che avevamo fatto giù, Gaffa. Nella tua spiega stesso, quindi era fine anno, adesso non è colorata, per me pare che sono 3 o 4 anni fa, sono 3 o 4 anni fa, Roger, sì, adesso non mi ricordo per un anno, non mi ricordo, che sono 3 o 4 anni fa, ok, riprendi, ti sei ricordato? Faccio a ricordarmi da una voce la faccia di una persona, magari se ti vedo mi ricordo sicuramente, però dicendomelo così non mi viene in mente la verità, non so cosa dirti. Vabbè, è venuta tanta di quella gente che tu non hai idea, soprattutto amici del baracchino eccetera, ne sono venute tantissimi, e magari qualcuno che sono tanto tempo anche senza vederlo probabilmente non lo riconosco nemmeno. Però per dirti, no, se io ti vedo è probabile che riesco a ricordare, questo senz'altro, perché se tu mi stai dicendo che ci siamo conosciuti vuol dire che così non metto in dubbio, però come faccio a sapere? Boh, non mi viene in mente, ecco, 3-4 anni fa poi soprattutto, Giulia, caspita, non lo so, farò memoria o Francesco, vediamo un po', avanti Bombo col tuo bip squillante. Sì, gli avevo dire da prima, cioè, mi sono dimenticato il sanatorio a casa sua, se domani al limite non sta facendo niente, se lo passa solo il martedì anche, là. Perché domani no, lunedì o martedì, da. Ehi, Antonio, te lo mando via apposta, bene va. Ti mando via apposta, e poi solo quel capo lo faccio saltare. Contento sì, che mi arrivi più forte di Antonello anche, contento sì adesso. Ehi, io c'ho un microfono che non vale a niente, mio, uno di quelli da 10 euro, se ci metto quello benedetto del 48, ti spacca quella lancetta. No, veramente, di segnale mi arrivi più forte di tutti in questo momento, la verità. vuol dire molto la posizione, lui a te le immagini, cassettina, non è possibile. Tu immaginati se uno si mette un coso, come si dice, su una montagna alta 2000 metri lui. Io scommetto, ragazzi, se uno si mette via c'è un argento, tutta la Sardegna prende, vero lui. Attenzione, prego! Comunque se vi interessa trovare il nome del 300, sono buone. Sì, un attimo che c'è Alessandro che ha fatto break, dopo glielo chiediamo. Avanti Alessandro. Ciao, ciao Giulio, di nuovo da parte mia, di nuovo qua, dai. Salutoni a tutta la ruota. Ok, Alessandro, ben riascoltato. Luca, Francesco da Osilo, che l'hai già sentito poc'anzi, Carrinuccio da Sennoli, che è in montagna, Luigi e anche Pompugno. Vai per chi vuoi. Capa, dai, comunque, dai, salutoni circolari, da parte mia tutto il bagaglino e se rientriamo. Pompugno! Pompugno, non rispondi. Ciao, Alessandro. Qui non ci sono problemi, io mi ricordo negli anni infatti facevo addirittura coesione della macchina con un certo Felicen, cioè l'hotel Sole Monti, e poi era un coso, no, un ristorante, un hotel, e poi ed era a Quenza e poi a Calvisi era trasferito, e dunque lo sentivo benissimo anche dalla macchina, quindi da sotto casa, dunque nessun problema, la corsica per me è favorevolissima, non ci sono problemi. Va bene, va bene, va bene, avanti buon po'. Non riprende ancora, chi sono sempre, come ti dico, come al suo, mi pare, sempre brinchendi, da una cosa all'altra, non è possibile. Avanti, adesso. Capo, dai, capo, va bene, dai, no, le volevo dire a Luca di mettermi la portare il cane a Messana, entrerà sicuramente dopo, dai. Dopo glielo dico io, se non ci sei più frequenza che glielo puoi dire, allora glielo dico io, va bene Alessandro? Questo lo devi dire a lui, ti devi mettere d'accordo con lui per i soldi. Lui è, mi sembra di aver sentito che non vuole 30 euro, non so cosa dirti. Giorgio! Sì, avanti, capì. Vai, mi sto abbassando, adesso faccio dall'alto al basso, come la scala faccio, mi. Adesso me ne vado giù a casa. Sono là lì, mi fate compagnia da lì, dai, anche se io non vi posso parlare, però è sotto la vostra compagnia. Anche in frequenza, auguro a tutti una buona serata e una buona domenica. Ciao a tutti, ciao ciao. Ok, ciao Gavì. Ascolta, facciamo questa prova, Gavì, così una curiosità mia. Quando sei sotto casa tua, prova a chiamare così dalla macchina e vediamo un po' se riesco a sentirti. Probabilmente ti sento dalla macchina, magari non ti sentivo con l'antenna di casa e ti sentivo dalla macchina, sotto casa. Prova a fare così, Gavì, va bene? Io provo, se mi date il tempo di un pochettino di viaggio io ci parlo. Perché prima stavamo cercando di parlarti con Antonello anche dalla macchina, però stavo parlando con... non mi ricordo con chi, non riuscivamo a entrare. Vuol dire non ti sentivamo. Vuol dire non ti sentivo. Vabbè, ma comunque prova, che alle volte uno si sposta anche di un metro e il segnale può essere migliore, capito? Alle volte è possibile. Va bene, dai, d'accordo. Chi sei rimasto? Mi sembra che sono rimasto solamente io, tu, al momento. Ti accompagniamo fino a casa, capì? E Alessandro che sta rientrando. Avanti Alessandro, se mi stai ancora ascoltando. Anche tu già ti fai sentire, no? Non è un problema, Alessandro, nonostante l'antennino corto va benissimo veramente. Evidentemente per il coso, per il sentino, diciamo, per quella zona lì, per tutta la Sinara soprattutto, io mi ricordo negli anni passati quando c'era il calcio alla Sinara, c'erano dei CB, dei secondini della Sinara che parlavamo tutti le notti, e non per vanto, ma devo dire che da Sassari non mi superava nessuno, per la Sinara. Naturalmente lì si dice sempre, se poi naturalmente uno qualcuno metteva il rinforzo, allora il discorso era diverso, ma io il rinforzo non ne metto mai e non ne ho mai messo, tanto più che non ne ho nemmeno adesso in questo momento, per l'avevo bruciato il fulmine il tempo fa. E stavo dicendo, e nessuno riusciva a superarmi da Sassari per la Sinara, avevo una posizione straordinaria, però abitavo in un'altra casa, non abitavo qua, capito? Io sto parlando di tanti anni fa, capito Alessandro? Era proprio una posizione ideale. Va bene, vediamo un po' se Gavino è arrivato a casa. Avanti Gavino. Giù, ancora no, ancora sono... è ancora un po' aperta, diciamo, di singoli, quindi ti copio ancora bene. Ok, va bene, vedrai che mi ricopi anche quando sarai sotto casa tua, mi copi lo stesso. Avanti, Alessandro. Ciao, dai, ok, va bene, No, adesso è giù, non so nella posizione in cui ti trovi, ma evidentemente poi, a quanto ricordo, diciamo che hai l'antenna un po' così, ma evidentemente, diciamo, è nella posizione in cui ti trovi, evidentemente, diciamo, hai un buon raggio, cosa ti posso dire, di radiazione, diciamo, dell'antenna, che va benissimo, ok? Ok, adesso, beh, diciamo, approssimativamente ti posso dire, tu sai dov'è la chiesa, i punti, dalla chiesa, diciamo, in linea d'aria saranno 200 metri, verso la parte vecchia però, dei punti vecchio, non dei punti nuovo, quello verso Monte Tignoso, no, dall'altra parte, capito, lì, nella zona dei punti vecchio, praticamente. Praticamente è una strada parallela. parallela a quella della chiesa, se vogliamo, dai. È una strada parallela a quella della chiesa. Dalla chiesa a casa saranno 200 metri in linea d'aria, forse anche di meno. Capito, Alessandro? Sì, ma all'incirca ho capito, Giulio, dove sei, perché? Sì, è lì, la salettina lì subito a destra, in quella via lì, o proprio la copra, che è dove vado a fare la spesa io, che ci sono andato anche stamattina, o Alessandro, sì, è proprio lì, sono io lì. C'è l'autoscuola c'è anche quella strada, confermi che è quella che stai dicendo, dove c'è l'autoscuola? Sardo, però non faccio tutte le vacanze qui provvidenziate. Faccio caglio. Cagliari, faccio Forza Taranta, faccio Oristano, eccetera, eccetera. Grazie Giulio Cappa. Ok Giuni, se vuoi ricordarmi da quale città provieni, perché ho capito, sei sardo, però vivi fuori dalla Sardegna, ho capito. Se mi vuoi dire da quale città, così per curiosità, può darsi che ci siamo sentiti tramite propagazione, non lo so, non mi ricordo. Avanti ancora Giuni. Cappa Giulio, no, con la propagazione ci siamo sentiti adesso, se non mi dimentico di QRZ, io sono sardo, sono di Sardegna, sono da Sardegna. Allora c'era il coro Falcone, non so se esiste ancora, poi c'erano di Porto Torres, il Tocai, quell'altro lì, il Gaviano, eccetera, eccetera, tutti i vecchi siti di una volta, però io qua in Sardegna non è che avevo così tante possibilità di modulare, magari salutavo e dopo andavo al mare, tipo, ancora Giulio Cappa. Ok, sì. Mi ricordo bene di Tocai, tanti anni che non muoio, tanti anni. Gabbiano era bancari, era in un'altra località ancora, ma sempre in zona, di anzi di vicino a Monte Oro praticamente. Sì, vecchi cibi che non sono più entrati in frequenza, ormai hanno abbandonato la frequenza da tantissimo tempo, da anni addirittura. Va bene, d'accordo. Vediamo un po', voglio fare di nuovo la chiamata per Gavino, se riesce ad ascoltarmi, forse adesso sarà rientrato anche a casa. Gavino, ci sei? No, io non lo sento assolutamente. Va bene, dai, avanti alle fa. Ciao, ok, dai, la parte mia mi sta avvicinando, sono quasi, diciamo, zona industriale. Sono zona industriale da parte mia, infatti sento qualche disturbo, ma deve essere arrivato qua dalla grande città, diciamo, di ferro, come si può dire, più che di ferro, ormai in distruzione. Ok, beh certo, tu lo sai benissimo, no? Dove c'è ferro c'è problema anche di radiofrequenza, più ferro c'è e più difficoltà ci sono ad ascoltarsi, beh, è normale, no? Lo sappiamo benissimo, ma appena lo passi poi così ci sentiamo ancora meglio. Avanti Johnny. Roger ancora Johnny che riprende per Alessandro e l'amico Gavino che io purtroppo non lo ascolto più. Volevo chiederti Giulio, il Gianni modula ancora? Perché ci siamo sentiti mi sembra 2 anni fa o l'anno scorso mi sembra che me l'ho dimenticato a parlare del baracchino e della grande orte. E dopo vorrei chiedere un'altra cosa, delle antenne, io vado in bicicletta ogni tanto, no? Sono andato anche voi e ho visto delle antenne andando verso Maccia Buretta, mi sembra, quella strada lì, e così un radioamatore che per caso parlava anche con degli amici della Charlie Hotel, praticamente io risiedo e vivo in Svizzera. A te Giulio cambio. Sì, confermo Johnny, sì, quello lì è Walter Diabone, che se l'avrei sentito negli anni passati, perché prima faceva CB, adesso fa da amatore, però di tanto in tanto diciamo che già si affaccia anche 27 e si fa sentire. E quello è il radioamatore più grosso, più attrezzato di Sassari e forse anche della Sardegna, perché ha tante di quelle apparecchiature che, cosa vuoi che ti dica, un negozio che difende non ce le ha tutte quelle apparecchiature, sia professionali che CB, non ci sono problemi. Sì, infatti, ma non è solo quella la stazione che ha, non è solo quella Maccia Curetta che hai visto, lì è una parte e poi ne ha altre due stazioni, a Sassari, una ne ha le punti e una ne ha a Sassari, città proprio, è grande quanto quelle praticamente, è attrezzatissimo di ogni tipo di apparecchiatura, non solamente unica, ma doppia, tripla e forse anche quadrupla. Non sto scherzando, guarda, sto dicendo quello che è veramente. È un collezionista oltretutto, oltre ad essere un grande appassionato della radio, è anche un grande collezionista. Pensa che in quella campagna ha costruito il bunker, si è costruito proprio dove si è fatto una collezione di apparecchiature non indifferente. Ripeto, un negozio non ce li ha tutte quelle apparecchiature che ha lui. Capito Giuni? Ma non vorrei interrompere la ruota, c'erano gli altri amici, il Gavino e l'altro di Baramobile. No, allora sicuramente che lui che conosce un mio amico Luigi, che ha abita appunto nella città del Canton Ticino, e lui è uscito con una sigla Raffaella con l'apparato, però adesso appunto è un HB9, da noi è HB9, operatore Luigi, però adesso la sigla non me la ricordo più, mio carissimo amico. Ma niente, provo a girare per Alessandro, vedere se mi ascolta. Alessandro, a te cambio. Giorni, ok, dai, sì, vi ascolto, anche se ho qualche disturbo dietro, ma diciamo che è derivato poi dalla zona industriale di Paolo Torres. Ok, dai, ne approfitto a salutarvi, ciao Giorni, ben ascoltato per la premiera, buona permanenza, buoni piedi in Sardegna, ci sentiamo tutte le prossime direi. Ci sentiamo, grazie della compagnia, ci sentiamo tutte le prossime, oggi giorni. Ciao Alessandro, buon rientro e buona serata e grazie dei saluti. E noi purtroppo la prossima settimana andremo a Cagliari, dopo faremo una settimana lì, poi una settimana oggi, eccetera, eccetera, come ho detto prima con Giulio. Giulio, provo un po' a rilanciare al Gavino, non so, mi segnori dov'è il paese, no? Sono di qua, conosco la zona, però prova te a rilanciarlo, a te Giulio K. Ok, io faccio questo tentativo, ma penso che non sia possibile, no? Perché avevamo problemi di antenna, siccome lui abita in una posizione un pochino balorda per quanto riguarda la radiofrequenza, e avevamo proprio quel discorso poc'anzi che stava installando un'antenna a casa, ma non era possibile. Pensa che non lo sentivamo poc'anzi dalla macchina, però in una posizione molto ma molto alta del paese, essendo lì una cittadina lì, vicino a Sorso, non so se tu lo conosci, anzi conoscerai senz'altro la zona. Dunque lui era sulla strada che porta a Nulvi praticamente, dove lì è la parte più alta di Sennori, perciò arrivava fortissimo qua, proprio sparato. Va bene, ciao intanto Alessandro, grazie anche a te per il QSO, ci sentiamo le prossime, noi già abbiamo modo di risentirci sempre. Salutoni, stavo dicendo, Giorni, per esaudire la tua domanda che mi hai fatto poc'anzi, Gianni, ma forse stavi parlando di Gianni Doppio Ru per caso, che tu sentivi o che hai sentito qualche tempo fa? Roger, sì, Gianni Doppio Ru, sì, Gianni Doppio Ru ci sentivamo quasi tutti gli anni, solo che mi sembra che l'anno scorso mi sono dimenticato un barattino a casa e non l'ho portato giù, no? E allora non l'ho sentito. Penso che ci sarà ancora in frequenza, la mia voglia scappa. Sì, te lo dico buonariamente, è il più malato della frequenza, così in maniera buona, perché noi ci consideriamo un po' malati della radio, capito? Sì, no, tu aspetta 5 minuti, vedrai che rientri, che lo sentirai, perché adesso lui in questo momento, lui esce, esattamente sono quasi le 7:30, esce dal lavoro proprio alle 7:30, lavora lì a Porto Torres, e vedrai che fra un pochino lui appena riesce accende il baracchino e noi lo accompagniamo sino a Sassari senza nessun problema, tutti tantissimi giorni, perciò avrai modo di risentirlo se hai la pazienza di restare ancora un po' in frequenza o giorni. Cappa Giulio, senz'altro, mi fa piacere, no, abbiamo fatto delle piccole chiacchierate anni precedenti, parlando sempre del più del meno. Di modi Giulio, complimenti per la tua stazione, io ti sento perfettamente, la radio completa proprio in mio e ancora meglio che ti sento. Abbiamo iniziato come ai vecchi tempi, quasi 50 anni di modo, così puoi capire, ho iniziato con un Nissan 3, Nissan 5, Nissan 23, Tokai modificato con doppi canali, e tutti li ho provato, e dopo sono andati un po' sul più moderno, però è ancora un apparato da paramobile, bellissimo, e va ancora bene, e Giulio Cappa. Ok Giorni, sì, beh certo, e anch'io, sono un novellino anch'io della frequenza, ci sono solamente dal 1972, 41 anni, va bene, tra me e un altro amico diciamo che siamo i più anziani forse della frequenza per quanto riguarda la CB, poi c'è Walter che stavamo parlando appunto quello di Maciacoleta che stava dicendo un po', quello è ancora prima di me entrato in frequenza di alcuni anni, senz'altro, poi c'è Gianni Doppio Ru che sentiremo tra noi molto, ne sono più che sicuro perché so benissimo che tutte le volte che lui lascia il lavoro a quest'ora si mette in frequenza e si fa accompagnare sino a casa, sino a Sassari, perché lavora a Porta Torres, però ora abita a Sassari, perciò avrai modo di risentire anche lui, è vecchissimo della frequenza, non ci sono problemi. Sì, va bene così, Giorni. Ti volevo chiedere io una cosa, in Svizzera com'è la 27? Voglio dire, è numerosa come numero di persone oppure è come qua, un pochino bassina come numero di persone? Da Giulio la 27 in Svizzera non esiste più, completamente finita. Quando abbiamo iniziato, noi abbiamo le montagne, andavamo su e si usava gli apparati anche piccoli di portare, per comunicare giù con il piano, per un bisogno, per un'emergenza, per un elicottero o qualsiasi altra cosa, perché i telefoni nei tempi non c'erano. Adesso quasi tutte le parti sono coperte di questi telefonini, così che il baracchino l'hanno tutti abbandonato. Qualcuno c'è ancora la stessa, non so, la GP, la Grand Play montata sul tetto, così che non la usa più. Praticamente non c'è più nessuno che parla in frequenza. Io ogni tanto lo accendo, però ho dato di testa la connessione e sento, mi sento. Ci sono anche dei sardi, ogni tanto mi fa piacere sentirmi, fa un grande onore sentirmi. Due sono città distanti, come trasporto la città che vanno in Olanda, come ritornano, quando passano lì mi richiamano. E mi fa piacere, insomma, sentirmi. Colinda, se ancora se ti ho dato delle indicazioni precise, vai Giulio, cambio. Ok Johnny, sì. Anche qua ormai diciamo che il linea di massima è finita. Io proprio alcuni giorni fa avevo stilato una lista dei nominativi di tutti quelli che ci sentiamo così frequentemente, ma se qualcuno magari di tanto in tanto già si riaffaccia, però ho contato appena 24 persone, che poi tra l'altro queste 24 persone le sentiamo una volta ogni tanto, magari 3-4 oggi, magari 3-4 domani e così via, no? Tutti insieme come una volta, io mi ricordo negli anni passati che a Settina i Marchini, che erano allora 23 canali, c'erano 23 canali occupati con una ruota lunga da 6, 7, 8 anche 10 persone per ogni canale. Oggi invece giornate intere tu puoi lasciare il baracchino acceso e qui poca gente si sente, qualcuno così, ma i più appassionati diciamo, o quelli che hanno più pazienza, che sono rimasti in frequenza. Invece gli altri sono tutti spariti. Prima c'erano anche tantissime donne qua, adesso non ce n'è più nemmeno una, non se ne sente più nemmeno una, ma non è quello il problema, non il fatto che ci siano o meno donne, no, assolutamente. Il problema è che la gente ormai ha finito, diciamo così, l'era della passione e ha finito per la radio. Sì, diciamo che tanti CB sono passati da radioamatori, sono passati, non ci sono problemi. Anche Alessandro, ad esempio, che parlava poco anzi con noi, anche lui in realtà è un radioamatore, anche se penso che non stia ancora operando nelle bande radioamatoriali, in quanto è fresco di patente anche, ce l'avrà 4 mesi, 5 mesi, non lo so con esattezza. Però tanta gente che qui appunto prima si affacciava in frequenza 27 si è allontanata dalla frequenza dopo che ha conseguito il patentino di radioamatore, e secondo me questo non è una cosa bella. Vabbè, comunque ognuno è padronissimo di fare come crede. Avanti ancora Giorni. Ecco. Cappa. Ok, c'è Graziano. Adesso ti mando il sindaco del satellite, della zona del satellite, ti mando avanti il sindaco. Così il sindaco lo dico io, però non è che sia il sindaco. Avanti Graziano, per l'amico Giorni che si trova a Monte Oro. Forse più di 80. Abbiamo anche io l'enfasi con tutti i nuovi stranisti. Non esiste più niente. Qualcuno lo sapete. Ma anche così mandano una occasione di parlare con la radio, ecco. Dicevo che una volta c'era una di Cagliari, Rosa dei Venti, mi ricordo sempre, era della provincia di Cagliari, ma ogni volta che io entravo, che andavamo in montagna a chiamarla, lei c'era sempre in frequenza. Poi ci mi mandavano le cartoline, mi mandavano le coselle, mi mandavano le foto. Mi sembrava bene di parlare con un freddo, io sì, con una tarda, no? Da punto della Svizzera. Invece del radio ascolto così o della radio amatori eccetera eccetera, volevo fare anch'io i permessi, però in una certa età non ho studiato, non mi piace più tanto, e faccio ascolto tutto, tutte le bande, queste bande anche non permesse, perché anzi ce l'ho sempre, però l'ho chiusa e basta, ma solo per questioni di età. Ma tutto questo perché? Perché a casa non mi volevano vedere più al lavoro. Basta, dice, hai lavorato tanto, non è il caso di continuare ancora oltre. Va bene, faccio venire avanti Graziano, per i giorni dalla Svizzera, che qui è figlia. Avanti Graziano. Papa Giulio, scusa per poco fa che è venuta gente e non ho potuto mollare, capa, te l'avrei immaginato. Ciao Giulio, ben sentito, mi sembra che ci ho parlato un paio di anni fa io, dove sei a Monteoro? Più o meno, zona Monteoro, Graziano, buona serata, me l'ascoltato, un sì, siete anche al QNA, ma sei ancora capa? Ecco, registrato il break, ehi Acappa, mi sembra che alcuni anni indietro ci ho già modulato io con te, dove sei, nella zona Monteoro Santa Maduria? Sono in paramobile, zona Monteoro, insomma, Monteoro, dai Acappa. Ah, capa, sei lì di passaggio, oh, mi sembrava che eri lì fisso a Monteoro, capito? Perché lì c'è un amico che non ho più sentito, così è Giulio, tu non l'hai più sentito Monteoro? No, non l'ho più sentito, tu parli di Vittorio, parli, poi parli di Ivan, parli, e Ivan è purtroppo è scomparso anche tra l'altro, poi c'è Antonio Monteoro, ma quello è un altro discorso, quello è il radioattore, c'è stato un break che faccio venire avanti, no, quest'amico che sta parlando con noi, grazie, e qui in Sardegna per farsi le ferie, capito, è sardo, però vive in Svizzera, capito, ecco cosa intendevo io, adesso io lo so, tu ti sei incuriosito perché hai la campagna tu lì a Monteoro, è per quello che ti sei incuriosito facendo di quelle domande, facciamo venire avanti il break comunque, avanti il break. Buonasera Mucciacci, qua da piccola stazione che non va da nessuna parte, chiamate anche Uranio che è in ascolto, poverino, buonasera Giulio, buonasera al tuo amico. Ok, facciamo venire avanti anche Uranio, se è ancora all'ascolto, vediamo un po', avanti Uranio, ci sei di nuovo con noi? Io non lo sento Uranio, chi sei Gabinuccio? Gabino, tu mi hai detto che c'è Uranio, non confermi? Risponde, avanti il becche. Buonasera a tutti, ciao Gianni, ti stavamo aspettando, guarda, adesso ti faccio parlare con un amico che si ricorda benissimo di te, eh. Avanti Giulio, dai pure i saluti a Gianni, che come ti ho detto sta rientrando dal lavoro, come tutte le sere. Appunto, lui a quest'ora si fa sentire. Avanti, Giorni per Gianni doppio giù. Ne parlavamo poco fa. Cappa. Cappa, ciao Gianni, cordialità e saluti, 5173 e un abbraccio rompicostiglia, come si dice in spagnolo. Mi fa piacere di ascoltarti, siamo ancora qua in vacanza. Tutto ok, non so se in baramobile come me, Cappa, a te e fai girare cambio. Avanti, chi era l'amico poc'anzi? Gabino, tu vedi? Ma forse non era Gabino. cammina un'altra voce, che insomma non era lui. Buonasera comunque Giulio. Ma la Piccaccio, chiedi un po', adesso sentiva qualcuno di Oristano, quelli che viaggiano con la carne, non è che Mauro criminale, quelli lì che sente lui. Vediamo un po', attento Giulio se ci sia ancora, c'è Luigi che le ha fatto un interrogativo, sicuramente l'avrei ascoltato. Ma Luigi, buonasera, continuità di saluti, ben ascoltato. Ma io non so come si chiamano, escono come un nominativo, sono sempre due camion, due amici, che passano in Italia ogni anno e vanno in Olanda, poi ritornano dopo un paio di giorni, penso che si caricano qualcosa per non ritornare col camion vuoto, ma sono simpaticissimi, troppo quando ti senti parlare, poi quando passano lì nella mia zona, mi chiamano e quando ho la possibilità, adesso sono anche pensionato, ti ascolto, facciamo una chiacchierata. A te Luigi K. È positivo, positivo. No, pensavo che sapevi che i nominativi, dai, perché ne conosco diversi che fanno quella zona lì, capito, di tanti che vanno su quella zona lì, ma ci sono anche napoletani che vanno su quella zona lì, eh. Ah, sì, no, quelli qua sono sati, sono, escono fuori con un nominativo di Italia o di Stano, poi adesso in quella zeta non me ne ricordo più. Come dicevo prima con l'amico Giulio, la frequenza da noi è morta, non c'è più niente, solo i camionisti, e intanto fai qualche tiratina. Se ancora capo e fai girare, io faccio correttivo, una buona serata a tutti. La brucia, la brace, saluti, capo. È positivo, dai. No, perché so, c'è questo Piccaccio mio che è della zona di Cagliari che fa quella zona lì, che la fa ogni settimana, fa il viaggio ogni settimana col trigo e fa quelle coordinate lì. A volte l'ho sento anche a propagazione, l'ho sento anche qua in Sardegna, ecco perché ti ho fatto, mi sono permesso di fare questa domanda, capito? Comunque dai, fatti un buon prosieguo, che so che era pronta la cena, hai fatti buona cena, buona tutto. Salutoni dai anche al QRA familiare. Ciao, buona serata, e rilancio al capo frequenza Giulio a te, e magari ci sentiamo ancora KK. Ok Giulio, niente, ok, io ti saluto e ti ringrazio per il cuore, se hai modo di restare a lungo qui in Sardegna o perlomeno ancora qualche giorno qui in zona, se ci senti, guarda, sì, me ne accetto, facciamo altre due chiacchiere insieme con me e con gli altri amici che ci saranno in frequenza, per me è stato un piacere ascoltarti, salutoni ancora, allora Giulio, saluti anche in famiglia, buona cena, a risentirci, ti mando avanti l'amico Luca, se c'è ancora. Luca, ci sei per salutare Giulio? C'era Gianni? Sì, c'è Gianni anche. Avanti Gianni. Cappa, mi ha fatto piacere sentirti, adesso ti ascolto un po' meglio, ti ascolto un po' meglio da qua la Plata 1. Cappa Gianni, io ho una preamplificatore di radio, però non so come funziona, se è tutta una cosa modificata. Se così, per esempio, la radio è migliore, a te Gianni cambio. Ma sì, adesso ti ascolto bene, prima c'era un po' di QRM, facevo fatica ad ascoltarti anche perché forse ero in zona un po' tortuosa per la parte tua. Cappa Gatta, allora come va? Tutto bene Gianni, con le scuse a Giulio e agli altri amici, tutto bene, tutto ok, tutto K. E adesso rimaniamo qualche giorno qui, dopo facciamo le feste greche come ti avevo già annunciato un paio di anni fa, andremo un po' a Cagliari Oristano una settimana, poi facciamo un po' di Costa Smeralda, che c'è una sorella che abita lì, ricovera lei a casa sua, quindi che giriamo un po' tutta la Sardegna, no, rimaniamo qua forse una ventina di giorni. A te Giulio, e fai girare per gli amici, io purtroppo devo fare quelle lì, se no la donna mi dà col mattarello le botte, KK. Ok, ok Giulio, dai, ti ringrazio ancora per il questo, avete sentito, dai, buona cena, c'è senz'altro, non ci sono problemi, figurati, è stato un piacere parlare con te. Fatti sentire se per caso dovessi avere la possibilità, cioè l'occasione di rimanere ancora qualche giorno qua. Va bene, c'è Luigi, avanti Luigi. È positivo Giulio, dai, che c'è questo apparato che non posso andare oltre, capito Giulio? Io ho staccato l'altro e sai che c'è il supermercato aperto e non posso parlare più di tanto. nascosto, non posso modulare dentro il supermercato. Va bene, d'accordo. Allora Gianni, mi sembra che siamo rimasti noi solamente noi, poc'anzi c'erano altri amici, c'era Luca, c'era Pomponio, c'era Graziano, mi sembra che Graziano ci sia ancora. Poi me ne approfitto adesso a salutarvi che devo preparare la cena e tutto. Salutoni circolari a tutti, ciao Giuni, buona carica quando la fai, 7351 al QRA familiare. Ciao Giulio, anche a te tutto quanto ricambiato. Ciao Luigi che ce l'ascolto, ciao Urania se ci sei, ciao circolari, ciao Giù. Ok, ciao Grazia, salutoni, ciao Rosi, ti ho sentito attraverso il microfono di Graziano, alle prossime, ci sentiamo. Avanti Gianni, per Graziano che sta chiudendo. Ciao Grazia, dai, buona carica quando la farai, saluto di tutto il tuo cuore. Ben sentito, avanti Giù. Ok già, siamo rimasti noi due soli, tutti si sono ritirati, c'era Alessandro anche, c'era Pomponio, c'era Uranio, c'era Gabrino da Senno, insomma un po' tutti stasera si sono fatti sentire, però tutti quanti hanno chiuso, hanno chiuso e dunque non, adesso siamo arrivati. Ti accompagno a casa, tanto è già ora quasi di sera, ti accompagno sino a casa già e poi chiudo, tu sai benissimo, no? Anche perché tu devi rientrare, io devo cenare, dunque così almeno ci salutiamo e anche per oggi è fatta. Avanti ancora già. Oggi non ti preoccupare, io sono fermo qua a Plata, mi sto prendendo un po' di fresco, sto rientro, tanto noi mangiamo verso le 9, quindi a Puglia. Mi trattengo un po' perché se poi viene la zona e comincia un po' a cancellare quella. Ho capito già, ho capito, sì. Adesso tu la sera fai il tappo a Platamona, dì la verità. Il gelatino ti piace, eh? Gianni? Oggi non me ne sto comprando il gelatino, eh. Volevo andare a pescare, ma non posso, e quindi ho rimandato, venendo qua un po' a rilassarmi. È un altro tipo di rilassamento, la pesca, ma comunque anche così mi va bene, perché mi rilascio un po' all'aria aperta e insomma ne rientro. Ok. Comunque ti volevo dire, al ritorno di nuovo è entrato Alessandro e l'ho accompagnato di nuovo sino a Sassari, di nuovo, cioè sino a Sassari, sino a Porto Torres, dove si è fermato lui, no? L'ho accompagnato sia all'andata che al ritorno, da sentire a Porto Torres, ho già, è rientrato, lui lo sai benissimo, va per lavoro, è chiaro, è ovvio, no? Poi e ciccia, ci siamo salutati e mi ha fatto piacere che ci siamo sentiti. Va bene già, allora io ti lascio, dai, prenditi un po' di freschetto, mangiati un gelato e io chiudo qua e scendo giù in tavernetta per la cena, intanto è questione di qualche minuto, sto aspettando la chiamata dal basso così da un momento all'altro. D'accordo già, alle prossime, grazie per il consiglio, ci sentiamo, dai, ciao.